La famosa eroica, quella uguale. Hans Kruse. Hai notato che la barba si alza? Kruse. Beh, almeno siete allegri, bravo. Almeno siete allegri. Ho subito una trasmutazione.